música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Lo so, è stata un'estate pesante, difficile. Vi capisco, ho condiviso le vostre pene, però abbiate fede, sta per finire. Lo so che è stato duro iniziare ad occuparsi delle attività erettili dei grandi della politica, andando avanti, avere un lungo, tedioso e fastidioso elenco di intercettazioni, vedere sfilare signore e signorine e continuamente nei più altolocati talk show della politica e dell'approfondimento. È stato altresì penoso in questi ultimi giorni doversi occupare del tono cromatico dei propri calzini. Ma sono azzurri, l'ho messo in lavatrice, erano celesti, sembrano turchese, se li mettono pensano che sono, ma invece pensano che non sono. Ogni mattina si guardava con cura e attenzione il colore del calzino per stare attenti a mettere il calzino giusto. Ancora più penoso è questi ultimi giorni, è difficile da sopportare il disegno criminale che attraverso Facebook vorrebbe massacrare e uccidere. Ma tutto questo finirà prestissimo, perché inizia il vero momento della speranza, la vera fonte di ispirazione, la vera linfa vitale dell'informazione del nostro paese. Insomma, lunedì inizia il Grande Fratello. C'è un compagno, purtroppo nessuno mi piglia perché è quello un problema, perché potrei beccare molto più persone, però mi pigliano no, questo non può essere, l'abito non fa il monaco. Te devo dire il nome ufficiale o quello che mi piace a me? Gigi con 2G. Voglio dare una movimentata all'aria nella casa. Penso che io ho perfino scritto un libro su quello che mi è successo da quando mi sono divorziato. Faccio l'editore, ho diversi giornali in edicola e niente, diciamo che io sono una titolare, però chi ho mia madre che mi segue. Sono giornali erotici, mettiamola così. Eh sì, voi non lo sapete, non ci avete fatto caso, non l'avete notato, eravate presi ad osservare ciò che accadeva di importante nel nostro paese, ma già da mesi era iniziata una lunga mesta pregna di speranza, transumanza di esseri umani verso i luoghi fatati del casting per il Grande Fratello. Mi è capitato di vederli davanti al Lingotto di Torino, era una grande piazza affollata, piena di persone, c'era tutto il circo degli orrori, c'erano i mostri, c'erano le belle, c'erano i brutti, c'erano i rimbecilliti, c'erano gli scemi di paese, c'era di tutto, e tutti lì aspettarono per passare per la stretta fessura, per la porta difficilmente oltrepassabile che porta alla fama qualsiasi essere umano. Quello che state sentendo è in realtà è il frutto e la spremitura del casting del Grande Fratello in Italia, perché oggi grazie ai mezzi telematici già possiamo vedere in anticipo e avere possibilità di dare piccola gloria fluttuante alle persone che in realtà non accederanno a quella casa, non avranno avuto i 4/4 nobiltà, non faranno parte della schiera degli eletti che da lunedì saranno al centro di ogni attenzione. Pratico pugilato a livello agonistico. Quanto tempo passi in palestra? Diciamo dalle... vado 4 volte minimo alla settimana. Lavoro il sabato sera, faccio la sicurezza, sì. E gli altri giorni lavoro in una ditta di pannolini. Ma perché il mio sogno da quando ero piccola era quello di diventare famosa. Mi dici una cosa bella di te, qual è? Eccomi. E mi dicono tutti che sono strana. Perché? Che vengo da un altro pianeta. Fammi vedere il... Che ti faccio vedere? No, mi piaceva vederlo, oh, insomma, Dio. Dai. Il brillantino sul dente. Un attimo di brivido, ma semplicemente un brillantino sul dente, ma altri avranno altre innominabili guarnizioni e nei luoghi dove lentamente e con concupiscenza la telecamera giorno per giorno ci svelerà quelli che saranno i protagonisti. Ecco, questa mattina avevo comprato in edicola un lussuoso compendio di questi 10 anni di Grande Fratello, l'ho lasciato di là in redazione, quindi non posso sfogliarlo tra le mani, a meno che qualcuno volenteroso me lo vada a prendere e me lo porti, dove c'era di tutto, dove appariva la resumazione, la revocazione, la resurrezione anche di quelli che ci eravamo dimenticati, le signorine nude sotto la doccia, i signori muscolosi, i litigi, i fidanzati, gli innamorati, i disgraziati, gli sfigati, c'erano tutti. Beh, già ci sono le anticipazioni su quello che vedremo lunedì, sarà vero o non sarà vero, pagine intere su Graziano Mesina, Grazianeddu, la Primula Rossa, il bandito sardo, anche lui forse al Grande Fratello, l'abbiamo cercato, è stato molto reticente, ma è giusto che sia così, naturalmente. Non si sa se è vero, sarà uno dei tanti meccanismi di promozione del gioco che gli ultimi giorni, per procurarsi un brandellino di piccola gloria, le persone dicono: ma ci hanno chiamato, mi hanno chiamato, poi non è vero. Ci sono invece succose anticipazioni, ci sarà un signore sulla sedia a rotelle, ma è giusto, dopo il cieco è giusto ci sia anche naturalmente l'inabilitato a muoversi. Ci sarà la donna che è diventata uomo, ma anche questo è giusto, c'è stato l'uomo diventato donna, è giusto che la donna è diventata uomo. Poi ci sarà una buona barcata dei terremotati abruzzesi, quindi almeno avranno un tetto, una casa assicurata, avranno anche il conforto della telecamera che li riscalderà ogni giorno con l'attenzione del pubblico. Ho fatto una piccola operazione chirurgica all'orecchia. Erano a sventola, erano... Tantissimo. Mi chiamo Maria, ho 23 anni. Cosa potresti dare alla casa del grande fratello? Un po' di tutto. Ma perché non lo fate entrare? Ma perché non lo fate entrare? Io voglio diventare noto. Dovete prendermi, prendetemi, vi faccio delle scene allucinanti. Ma perché non lo fate entrare? Non me ne frega un dei soldi, ve li regalo tutti, tanto sono miliardario. Li devono prendere, perché sì, lo scopo di questo programma, di questi reality, è divertire e curiosire le persone. Io penso che sto nel posto giusto. Avete sentito? È chiaro che la chiamata alle armi del popolo degli sconfitti che cerca riscatto attraverso il grande luogo della celebrazione e della propria esistenza, che è appunto il reality show, si presenta alle guardie, ai guardiani delle soglie, per portare il proprio fardello di mesta esistenza che non aspetta altro che avere una certificazione della televisione. C'è il brasiliano, c'è lo strano, c'è quello che ha fatto l'operazione alle orecchie. Insomma, ognuno è consapevole che fatti banali della propria vita, la propria esistenza, come vendere giornalini in sozio in edicola, come averci le emorroidi, come averci un piercing, come averci delle cose che tutti capita via via nella vita di riscontrare nella cerchia di amici e familiari, diventa oggetto e motivo di eccellenza, e quindi tutti dentro al Grande Fratello. 800240024, cosa avreste voi per poter meritare di entrare al Grande Fratello? Facciamo anche questa mattina, se possibile, mentre con i miei ospiti commenterò questo grande momento di gioiosa vanagloria nazionale, cosa avreste voi per partecipare al Grande Fratello? Immaginiamo che questa sia un'ultima chance, che ancora esista un posticino libero dentro quella casa delle meraviglie. Chiamate, presentate, come hanno fatto questi ragazzi, queste signore, questi pensionati nel corso dell'anno, il vostro pietoso caso umano, e vedremo se riusciremo a farvi entrare. Io sono d'America, ho fatto 5 scoperte. E allora, prima scoperta, Napoli con la spazzatura. Seconda scoperta, la pace in Israele. Terza scoperta, il Polo Nord, dove sbagliavo da montagna e ci fu il terremoto in Napoli e Abruzzo. Poi, Big Up 1, primo desetto dell'acqua. Secondo Big Up 2, dove morirono assai, con le regine che ho incontrato che hanno chiudevano e morivano. Io sono Domenico Piesadelli. Sogno conosciuto in 92 nazioni in tutto il mondo. Benissimo. Siete contenti di me e io di voi altro. Grazie e bene. Grazie a voi. E ringrazio a lui. Devo dire che noi abbiamo cominciato in maniera inconsapevole e preventiva dalla giornata di ieri a fare le scopette, cioè le scoperte, come questo signore che probabilmente sarà candidato anche lui a entrare nella casa, raccontando la meravigliosa storia del signore con l'albero di pere in giardino, che era stato lambito dalla furia extraterrestre che aveva spogliato quest'albero, che ha gettato la pietra luccicante nel suo giardino ricoperto di una sorta di ragnatela. Lui conservava questa pietra, era un meraviglioso personaggio da Grande Fratello, ma penso che voi abbiate fantasia e voglia di raccontare anche le vostre storie. Intanto presento il primo ospite in studio, Luca Mastrantonio, buongiorno. Buongiorno. Giornalista del Riformista, autore di Razional Popolare, edizioni Einaudi. Abbiamo carpito, rubato, estrapolato dalla rete il succo, la spremitura dei primi casting del Grande Fratello. Sono quelli che non andranno mai probabilmente nella casa, però tu hai notato dei sintomi del morbo Razional Popolare in questi signori? Beh, diciamo che siamo ormai ad una fase di volontarismo puro. Se prima veniva magari composto, compattato dagli autori, ormai pirandellianamente sono i personaggi che bussano alla porta dell'autore e dicono: dammi un'opera, dammi un'opera. Io penso che non dovremmo più pagare degli autori, perché ormai non c'è più nessuna fatica, basta aprire la porta e scriverci sopra Grande Fratello. Solo editori, cioè quelli che essenzialmente lo mandano in onda. Solo domatori da circo. Altro ospite, Piero Vereni. Piero Vereni, buongiorno. Buongiorno. Antropologo, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata, autore di Identità catodiche, edizioni Meltemi. Piero, so che tu hai fatto degli studi approfonditi sui casting del Grande Fratello anche in paesi lontani dal nostro. Hai studiato il Grande Fratello africano, mi sembra. Sì, sì. Quali sono i punti in comune rispetto a questa popolazione, a questa tribalità nostrana e quella che tu hai visto e seguito nei tuoi studi? Beh, guarda, la differenza fondamentale mi sembra che il Grande Fratello Big Brother Africa, io mi sono interessato soprattutto di questa edizione, insomma, che è trasmessa da Johannesburg in Sudafrica, ma riguarda 12 paesi nelle prime due versioni del 2003 e del 2007, e adesso la versione che è attualmente in corso sono 14 paesi: Angola, Botswana, Ghana, Kenya, Malawi, Tanzania e così via. Ma anche loro hanno la glorificazione del caso umano come abbiamo noi. Sì, hanno diversi, sì, anche se lì magari sai avranno un sacco di possibilità in più rispetto a noi. Sì, poi c'è la tensione, che ne so, tra bianchi e neri, perché Namibia e Sudafrica alcuni concorrenti sono bianchi, quindi si è creata questa tensione, diciamo volutamente, insomma, astrattamente, insomma, no? tra concorrenti bianchi, diciamo, concorrenti africani con i quattro quarti, insomma, di africanità, insomma, c'è questo tipo di rapporto. Non so, noi dobbiamo accontentarci della donna diventata uomo. Certo, certo, sì, sì. E quindi, ascoltando invece questo prima sventagliata di casting rispetto ai tipi umani, l'antropologia del concorrente da reality, noti dei cambiamenti. Io noto una sorta di cosmopolitismo, non esistono più delle categorie specifiche che pensano di ambire a questo riconoscimento, ormai ce n'è per tutti, l'impressione è questa. Sì, sì, ormai è chiaramente un programma ormai percepito come totalmente democratico, insomma, no? E in questo mi sembra che tenda a somigliare sempre di più a quelli che chiamiamo i social network, insomma, ormai chiunque si può aspirare, insomma, perché no? Perché non io? Perché non tu? Insomma, chiunque ha la, diciamo, poi non serve essere dei freaks, diciamo, poi è ovvio che i selezionatori selezionano magari dei casi particolarmente evidenti, ma ognuno di noi, no? Sì, vedo che comunque c'è sempre una percentuale comunque anche lì di marchettume o di clientelismo, anche qui vedo che c'è una che ha fatto l'appoggio al tronista, quindi esiste sempre comunque una sorta di casta di televisivi che ha una percentuale, una quota a parte nell'accesso a Grande Fratello. Quello non è, come si può dire, quello sta, è il problema dalla parte della produzione, ovviamente, no? Che si sentono quasi obbligati a seguire certe forme comunque clientelari, insomma, no? E invece di dare libero sfogo veramente alla fantasia al potere, come potrebbe essere Grande Fratello, insomma, no? Sì, è una sorta di trampolino di lancio per gnocca di lusso e cose del genere. Yes. Abbiamo i primi concorrenti. David, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo riprendere il paragone che ha fatto lei prima. Questa chiamata alle armi, ecco, prima c'era la chiamata alle armi, adesso c'è la chiamata al Grande Fratello, questi 5 mesi, prima 3, poi ma lei è un volontario, sarebbe un volontario nel caso ci fosse la chiamata alle armi? No, assolutamente. Non è un caso umano? No, assolutamente. Non c'ha nessun orrore, nessuna particolarità, nessuna... Non si vergogna? Non si vergogna? No, veramente no, io non mi vergogno, sono una persona che non provo vergogna e non provo rimorso. Beh, il senza vergogna sarebbe un bel personaggio nella casa del Grande Fratello. Ma non mi interessa. Ho provato, guarda, dico la verità, quando anni fa ho provato una volta a fare i casting, ma sono solamente una grandissima bufala. Ah, quindi lei è un deluso, dice questo per delusione. Sì, ma no, non penso, ma perché solamente... se ci ha provato aveva delle speranze, sì, però. Ho provato provando a fare il casting, ma però era un'iscrizione, già ancora non per fare questo. Cosa al casting? Cosa voleva diventare? Ma niente, volevo provare, basta, volevo solamente provare. Ma che talento aveva? Quale qualità portava sul piatto? Ma io non ho talento, sono un ragazzo normale. Quindi un tipico esempio di personaggio da reality, uno che non è nulla, non sa fare nulla, ma però vuole essere lo stesso in televisione. Quindi guardi che lei ha 4/4 nobiltà e a pieno diritto lei si presenta a questo nostro casareccio improvvisato e totalmente improprio casting per il Grande Fratello. Quindi io la terrò conto di lei in quanto elemento privo di alcuna malizia, ma pieno di tutte le qualità necessarie per partecipare al Grande Fratello. Sei d'accordo? Assolutamente arruolabile, neanche come la marina inglese che doveva tirare una botta in testa perché se l'è tirata da solo. Fabio, buongiorno. Fabio, 27 anni. Buongiorno. Lei cosa sa fare? Io non so fare niente di particolare. Quindi perfetto per fare il Grande Fratello. Esatto, ho tutti i requisiti. La mia particolarità però è che non ho mai visto Grande Fratello. Questa è una meraviglia, quindi sarà tra le persone che non hanno quel senso ormai molto fastidioso di capacità di prevenire quelli che sono i rituali ormai abbastanza prevedibili della trasmissione, quindi lei si muoverebbe in totale stato di libertà, non sarebbe assoggettato alle regole che ormai gli altri ben conoscono, non avrebbe bisogno di fingere. Sterile. Io non conosco le dinamiche, non conosco come fa a uscire. Non lo so, perché io non prendo le reti fine in vesto e non l'ho mai visto. Beh, guardi, che lei non sia stato contaminato nemmeno un istante alla sua vita Grande Fratello, devo dire che già questo rappresenta una particolarità unica, perché anche se non si prendono le reti fine in vesto, come dice lei, comunque lo si vede dappertutto. Questa mattina ci ho sbattuto la faccia uscendo dalla metropolitana in un librone che adesso mi hanno dato, dove il Grande Fratello story c'è tutto, quindi anche se non l'avessi mai visto so di cosa si tratti. Ma sentiamo Piero Vereni. Piero Vereni, è plausibile secondo te una tipologia di verginità da Grande Fratello come quella proclamata dal nostro ascoltatore? Ma diciamo, è improbabile, ma perché no? Ma quello che mi sembra interessante è proprio questa dinamica, no? Io non l'ho mai visto, ma voglio essere visto. A me fa venire in mente, sai, quelli che si pubblicano i libri di poesie, no? Che vanno dagli editori, diciamo, senza scrupoli. Siamo cattivi, non soltanto quelli, romanzieri, saggisti. Diciamo, sì, va bene, che, però diciamo che mi interessa soprattutto gli scrittori di poesia, perché pare che siano molti di più dei lettori di poesia, no? Sì, perché è il massimo della velleità di un essere umano, sì, scrivere, sì, poesie. Ecco, senza averle mai letto, quindi senza sapere come si fanno, insomma, no? Sai, mi hai dato un'idea, un giorno voglio fare i libri sfigati, quelli pubblicati a spese dell'autore. Sì, è una buona idea, sì. Ce ne sarebbe da raccontare anch'io come esperienza, come redattore editoriale, qualcosa ti potrei raccontare forse. Melog 2.0. Allora, buonasera a tutti, io sono Secondi Floriana, sono nata il 5 maggio del 1977 e dopo un percorso lungo e tortuoso finalmente sono arrivata qui da voi, perché la vita in passato non mi ha regalato molte cose. Ho passato da 0 a 14 anni in collegio, ero il capobanda, il capostipite di 600 bambini, non c'è mai stato nessuno che è stato più bravo di me in niente. Però io nella mia sfortuna sono stata molto fortunata, perché fin da piccolina ho avuto una marcia in più, diciamo, nel sapermi gestire nei problemi. A me più mi infognano, più mi spingono per terra e più mi alzo su. Io sono venuta qui perché è il mio premio. Quanta nostalgia, Floriana Secondi, una delle maggiori esponenti della corrente degli sfigati e gloriosi nel Grande Fratello, che presa e glorificata attraverso un'infinità di vittorie, coloro che portano la propria disgrazia come strumento di vittoria, come chiavistello per vincere. Lei che era tartassata, vissuta dalle monache, vissuta in borgata, maltrattatissima, infatti vinse. Ma ci fu anche De Megni che portò la sua triste storia di bambino rapito, e l'ultimo Ferdi Beriscia, l'albanese col gommone, che fece tutti piangere e sanò tutti i nostri sensi di colpa nazionale. 800240024, stiamo in maniera sciagurata e scellerata questa mattina, però con ospiti qualificati, analizzando la nostra voglia di esistere attraverso il Grande Fratello. Luca Mastrantonio, rispetto a questa corrente, questo filone della sfiga che diventa elemento di vittoria all'interno del reality, è una delle molle per cui tutti noi vorremmo entrarci per poter rappresentare in maniera gloriosa una volta tanto le nostre disgrazie. Sì, è una molla che scatta, e però credo che storicamente, ormai dopo 10 anni, si può fare questa distinzione. Forse appartiene ad una sfera delle prime edizioni del Grande Fratello, questo riscatto. L'ultimo Beriscia ha vinto per questo, sì. Sì. Diciamo vittoria. Che era un momento particolare, stava per vincere la tettona maggiorata, era lì, ma era un momento particolare in cui quel tipo di persona era bene non dargli troppa gloria, e si salvò in corner facendo vincere Beriscia. A me non la vedo così, ma è una mia lettura, sì, personale. Forse come vittoria sì, ma come composizione penso che invece adesso siamo effettivamente alla corte dei miracoli, cioè bisogna comunque avere qualcosa di particolarmente eccentrico. Appunto, adesso abbiamo avuto questa quota, non so se definirla rosa azzurra, dei terremotati, poi dei terremotati. Quindi adesso, beh, io sono un terremotato, potrei partecipare. Ambire assolutamente, e l'unica cosa è che forse adesso penso che ci rifletta un po' meno quello che siamo e di più quello che vorremmo essere. Questa sarà anche un po' la differenza. Piero Vereni, su questa ultima lettura che stiamo facendo, ricordo, antropologo e ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata, sull'elemento disgrazia cosmica come elemento di vittoria. Ma io non sono convinto che sia un fattore determinante. Secondo me il fattore determinante... Ma lo è stato statisticamente, sono almeno 5-6 casi in cui hanno vinto proprio per delle colossali e eterne sfighe. Ma secondo me fa sempre parte dei problemi di chi fa il casting, no? Che o c'ha il senso di colpa o ha paura che il programma faccia flop e quindi premono l'acceleratore su questa direzione. Però io penso che potrebbe funzionare perfettamente e altrettanto bene con appunto una serie di soggetti che non hanno nessuna qualità come quelli che state cercando, no? Perché io credo che l'importante per programmi come Grande Fratello non sia la capacità di comunicare, ma è sia la voglia di esprimere, cioè non conta niente, cioè si vince Grande Fratello o si è un personaggio buono per il Grande Fratello nella misura in cui si ha questa urgenza di esprimersi, cioè di farsi vedere sostanzialmente, di rendersi visibili. Poi se questa visibilità sia nella più totale banalità o ci sia l'eccentricità, il transgender, quello penso che dipenda più dal... come si può dire, dal pensiero sottotraccia degli autori. Ecco. Anche perché diciamo che gli eccessi nella direzione della particolarità, la sregolatezza, l'eterodossia non ha mai funzionato, non ne possiamo più ormai o non ne può più il pubblico medio della televisione. Andiamo avanti, visto che stanno rispondendo in parecchi alla nostra chiamata alle armi. Walter. Sì, buongiorno Giannini. Sì, Giannini, mi dica. Giannini se n'è andato da mezz'ora, però che poi sarebbe Giannino, porterò anche a lui il suo saluto. No, scusami. No, si figuri, mai sono felice. No, scusami. Io vorrei fare una provocazione, no? Siccome ho 62 anni e sono un maratoneta, sì. Supponiamo che io vengo accettato dal Grande Fratello. Idea favolosa. No? E mi farei portare dentro in studio un tappeto roulant. Mi segue? Un tapis roulant, sì. Poi farei una sfida a Gianni Morandi, a Riccardo Fogli e il vostro Cruciani. Ma Cruciani è giovane, vince. Giovane Gagliardo. No. Ma, non so se vince con me. Non so se vince. Ah, quindi chi schiatta prima farebbe? Chi schiatta prima di voi sul tapis roulant? Vi mettete a correre per tutta la durata? No, guardi che io corro tutti i giorni. Per questo schiattano Cruciani, Morandi e Fogli e lei vince. Sarebbe un bello scoop, no? E se schiatta lei è ancora più gloria. Io in studio col tapperulante. Ah. E in studio televisione Gianni Morandi, Riccardo Fogli e Cruciani. Guardi, questa idea, io tanto so che gli autori del Grande Fratello potrebbero aver ascoltato questa trasmissione. C'è un signore, un volontario, una cavia umana che sfida i concorrenti del Grande Fratello, ma anche personaggi dello Star System radio-televisivo, che lui si mette sul tapis roulant e ci sta per tutta la durata del Grande Fratello, che dura 6 mesi adesso, qualcosa del genere. 5 mesi dura. Lei resisterebbe 5 mesi a correre? Beh, ma io corro tutti i giorni, certo. Sì, ma come fa per le... È 2 ore al giorno, non posso correre 24 no, ore al giorno. È 2 ore al giorno facile. No, lei dovrebbe star lì sempre, secondo me. Dipende che tempo fai, Ma no, piano. A 3:10, a 62 anni sono sempre il primo. Vabbè, vediamo, potrebbe essere una buona idea e potrebbe essere un grande spettacolo di morte in diretta se loro fossero così sadici da accelerare il tapis roulant mentre lei sta sopra. Laura, lei invece cosa può fare? Buongiorno Gianluca, io volevo proporre il mio papà con la badante. Beh, anche lì è un caso di atletismo, atleta estremo dovrebbe essere, con la badante suo padre dovrebbe fare. 86 anni, no, niente. Cioè, ma schiatta dopo 5 minuti? No, ma va, mio padre non schiatta, è un guru. Ma con la badante cosa dovrebbe fare? È molto bello vedere la capacità di una persona di 86 anni. Non me lo dica. La vitalità di una persona di 86 anni dentro al Grande Fratello dove ma lo sa cosa accade dentro il Grande Fratello? Sa cosa accade dentro il Grande Fratello? Mio papà si divertirebbe da matti. Ah, questo non ne metto in dubbio, anche noi probabilmente. Però sarebbe uno spettacolo un po' estremo, un signore 86 anni con la badante in atteggiamento però... promiscuo non è bello. No, ma quello no, sicuramente. Ah. Però nel contesto generale sicuramente sarebbe bello vedere la cosa succede tra le due generazioni. Anche questa è un'idea favolosa, dimostra che in realtà potremmo dare spunti favolosi agli autori del Grande Fratello. E adesso alla fine c'è Fabio che vorrebbe tirare le orecchie a me e uccidere Piero Vereni per un oltraggio che abbiamo compiuto poco fa in questa trasmissione. Fabio, buongiorno. Buongiorno, no, io non voglio tirare le orecchie a nessuno né uccidere nessuno. Dico solo che paragonare gli sfigati, come li chiamate, del Grande Fratello, alla gente che scrive e che non ha accesso all'editoria perché è una casta estremamente sì. chiusa, mi sembra veramente eccessivo. Allora, mi diceva Mastrantonio che anche Umberto Saba ha iniziato a pubblicare le sue poesie sotto pseudonimo del suo gatto e a spese proprie. Però io parlavo di velleità. Esistono dei libri di poesie autoprodotti da signore e signori che meriterebbero il rogo assieme ai loro autori. Su questo lo dico con grande tranquillità. Sì, ma non esiste una regola per scrivere la poesia in particolare, come il mondo dell'intelligenza. Sì, deve essere poetica, no? Esiste una regola. Deve essere poeticamente ispirata. Quella è la regola per la poesia, se no non è poesia. Sono sì, pura velleità. Parlare di questo mondo di gente, tra virgolette, con doti artistiche. Io ho scritto un libro molto bello che prima o poi farò pubblicare a spese mie, perché è impossibile. È stato giudicato da una grandissima agenzia letteraria di primissimo livello con due paginette in cui io non ho capito cosa volevano dire. Questo è senza, quello che dice lei è senz'altro vero. Sentiamo un attimo Vereni, con cui divido a metà l'onere di avere detto questo. Io non mi riferivo a chi scrive, mi riferivo a chi non legge. Cioè in Italia, se uno va a vedere letteratura dei libri di poesia di grandi poeti, Luzzi, Caproni, i più grandi poeti, Zanzotto, tirano 1500 copie. E invece se uno va a vedere quanti libri escono di poesia, ne escono decine di migliaia, tutto qua. Semplicemente è evidente che in Italia ci sono molte più persone che scrivono poesie, sentendosi in grado di farlo, che non persone che umilmente cercano di imparare dai grandi poeti. Fine. Mi sembra che ci siamo sufficientemente spiegati con Fabio, che voleva soltanto fare un appunto, non doveva aggiungere nulla al casting del Grande Fratello. Rimango dell'idea che questa è una mia posizione eretica che trova detrattori e denigratori anche nella cerchia stretta dei miei amici, che in realtà si scrivano troppi libri, sono troppe persone che pensano che sia rinunciabile per il mondo, me compreso, mi ci metto per primo, quindi non mi tiro fuori, quello che loro pensano e scrivano. Melog 2.0 vince la prima edizione del Grande Fratello, Cristina. Mamma, ho vinto. Brava, hai vinto, hai detto la parola giusta. È la prima volta che ha vinto il Grande Fratello. Che nostalgia, fu la prima volta, fu lo sverginamento del nostro immaginario. Cristina Plevani, la bagnina di Iseo, che vinse il Grande Fratello non tanto per ciò che aveva fatto, ma per ciò che aveva subito. Lei che cercava l'amore all'interno della casa, fu colpita, presa, affondata dietro un divanetto Ikea, dietro la cortina di un lenzuolo messo come baluardo all'atto penetrativo compiuto dal perfido Taricone. Questa è la sintesi per cui la Plevani vinse il Grande Fratello. Ma poi a me non fece poi grandissima strada. Questa mattina stiamo raccogliendo desideri, intensità e volontà del nostro pubblico che vorrebbe partecipare al Grande Fratello. Abbiamo avuto delle serie proposte, degli episodi veramente toccanti, dal il sessantenne maratoneta che vorrebbe correre su un tapis roulant sfidando alcuni personaggi dello spettacolo come Gianni Morandi e Tozzi, alla signora che vorrebbe mettere dentro il padre 86enne assieme alla badante a fare non vogliamo nemmeno sapere cosa. Proponiamo noi queste primi risultati del nostro casting e per un giudizio e un commento a Paolo Mosca. Paolo Mosca, buongiorno. Buongiorno. Paolo Mosca è un autore televisivo, autore anche di reality, ha appena pubblicato un libro, Reality dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, per Bompiani. Conosci te sicuramente, anzi fa parte del tuo mestiere, quello che è la parte non vista nel reperimento di personaggi da reality. Cosa ne dici innanzitutto di queste due proposte che ci ha fatto il pubblico? Ma mi sembrano interessanti così di primo acchito. Diciamo che quello che si cerca nei reality sono personaggi non ancora visti, che non copino un Taricone o una Cristina. Questi mi sembrano nuovi. Però non hai l'impressione, Paolo, che comunque ormai esistono le categorie delle gabbie? Ogni volta che c'è un nuovo reality noi lo incaselliamo, diciamo questo è un po' un Taricone di nuova generazione, e questa è una Floriana Secondi però elaborata in un'altra area geografica, questo fa parte della categoria dei passaggi di genere e via dicendo. Ma diciamo che ci sono due modi per fare i casting, uno è quello di farli e vedere che cosa arriva e poi decidere tra quelli che si vedono, quali sono i personaggi con più personalità, quelli più interessanti. L'altro è proprio quello da partire una griglia, per cui, quest'anno avremmo il desiderio di avere un prete, quest'anno avremmo il desiderio di avere un gay quarantenne. Dopodiché si cercano quei personaggi lì e si cerca di riempire la casellina. Ecco, questa analisi di mercato cosa viene fatto? Sui Grandi Fratelli di altri paesi o su esigenze che voi intuite che ci siano nella popolazione televisiva? Ma di solito su intuizioni, non è che ci siano grandi... Ecco, secondo te sapere che i terremotati oggi potrebbero avere successo, cosa lo ha fatto pensare? Ma probabilmente per il cancan mediatico che c'è stato. C'è da dire però che spesso sono anche i partecipanti ai casting che si propongono loro stessi come il nuovo Taricone. Anzi, il grosso del lavoro è scremare tutte queste persone che in qualche modo si sono già costruite un immaginario che pensano di poter vendere a chi sta facendo il casting. Quindi la verginità di immaginario, di costruzione del personaggio è ancora una dote che ha un valore sul campo del casting. Sì, poi anche qui bisogna, diciamo che i casting vengono fatti da tante società diverse per tanti reality diversi, ognuno poi ha il suo stile. Nei casting che mi è capitato di seguire, la verginità, la novità, la personalità erano assolutamente qualità interessanti. Qual è la percentuale di persone che invece devono comunque fare quello spettacolo rispetto, non so, su 10 concorrenti, quanti sono selezionati con il casting in media e quanti devono comunque starci? Nella mia esperienza erano tutti selezionati con il casting. Tu hai fatto l'Isola dei Famosi, mi sembra? Allora, io ho fatto l'Isola dei Famosi, dove però non ho mai partecipato ai casting. Mm. E poi quello è un discorso un pochino diverso, perché non è gente popolare, deve avere comunque già una fama. Sì, devono essere in qualche maniera persone da resuscitare, ecco. Esatto, e lì il meccanismo è un po' diverso, lì si parte dall'idea, no? Non so, uno pensa a come Valeria Marini potrebbe stare sull'isola e già l'idea ti solletica e quindi poi cerchi di capire se la cosa è fattibile. Ma il Grande Fratello, diciamo, è il reality generalista rispetto agli altri che hanno degli specifici ormai. Può entrarci chiunque, c'entra infatti il cieco, c'entra il personaggio con la sedia a rotelle, non vengono richieste qualità fisiche di tenuta se non quella di star dentro e darsi da fare perché lo spettacolo ci sia. Esatto, perché poi ci sono anche i reality tipo l'Isola, tipo Wild West, che mi ricordo avevo un po' seguito, dove c'era una necessità anche fisica, quindi se uno deve andare a cavallo tutto il giorno deve in qualche modo star bene. Sentiamo Luca. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao. Lei Luca. È un concorrente? No, non sono un probabile concorrente potrei essere. Quello che volevo dire io, volevo complimentarmi con la tua trasmissione che seguo tutti i giorni. Pronto? Sì, sì, sto ascoltando la sua proposta. No, quello che volevo dire io è che probabilmente nel Grande Fratello non si è mai inserita persone normali, mi spiego meglio. Alcune mamme, compresa la mia che ha 67 anni, segue il Grande Fratello vedendo i personaggi come i figli, come al di fuori di casa come crescono i figli. Ma lei è convinta che tutte le mamme siano convinte di avere dei figli normali? No, molti dubbi in proposito. Ma anche la mia, però se seguo l'esempio giusto di Taricone e di altri, pensa che io al di fuori di casa mi comporti così, che in realtà non è proprio l'esempio. Lei quanti anni ha, Luca? 37. E ancora è molto, vedo, attento a quello che è il giudizio di sua mamma, quindi sarebbe perfetto lei come concorrente accompagnato dalla mamma. No, perché mia madre, io gli racconto tutto, non ho problemi. Gli racconto più nulla da quando ho 12 anni. Andiamo avanti, Michele. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Cosa sa non fare lei per andare al Grande Fratello? Allora, te lo dico subito, però ti voglio fare i complimenti. Sì, sì, vabbè, questo non ce ne importa niente. Avanti. Ma mi blocchi così? Sì. Allora, io ho fatto questa proposta. Metto a disposizione i miei 3 ettari di pomodori, ok, per entrare quindi nel casting, e poi se ce la facessi potrei proporlo ai ragazzi della famosa casa come premio finale. Dico, venite con me alla fine, chiunque esso sia il vincitore, al di là del vincitore, a raccogliere i pomodori. Ad aiutarmi a raccogliere i pomodori e a metterli in vendita. Beh, non è male. i primi problemi legati all'immigrazione in Italia avvennero nel Casertano tra raccoglitori di pomodori. Un giorno ne uccisero uno e si capì che da quelle parti succedeva qualcosa. A distanza di una quindicina d'anni lei propone la risoluzione pratica all'assioma che noi tutti abbiamo fatto galleggiare dal primo momento questa trasmissione, che sarebbe braccia sottratte all'agricoltura. Quindi lei ridarebbe all'agricoltura le braccia che ingiustamente sono state sottratte. Piero Verini, su questa proposta. Non funziona purtroppo perché è fuori dal periodo di garanzia, capito? La raccolta dei pomodori andrebbe ad agosto, settembre, quindi temo che pochi sarebbero disposti a investire. Ma forse in serra, avrà delle serre con pomodori. Ecco, allora sì, forse sì, però insomma, poi fa un incrocio con la fattoria, diciamo. Insomma, no. Paolo Mosca, perché diamo tutto per degno di essere comunque commentato, mettere a raccogliere i pomodori è qualcosa simile alle operazioni vili che fanno nel Tugurio molte volte, cosa ne dici? Sì, no, ma infatti mi sa di cosa già vista anche, non mi sembra una cosa troppo originale. Più che altro quello che diceva prima l'ascoltatore, dicendo che non ci sono persone normali. Secondo me il fatto che nei reality ci siano persone normali è un'incomprensione del pubblico, nel senso che nei reality non si cerca di mettere delle persone normali, ma delle persone con delle caratteristiche molto definite, quindi con delle personalità forti. Taricone non è una persona normale. E questo secondo me è importante da capire. Luca Mastrantonio, ci lasciamo, siamo proprio in conclusione, su questo concetto bistrattato e ambiguo di normalità. Ma insomma, della norma, non possono essere normali perché se poi avranno successo stabiliranno una nuova norma. Taricone era anormale prima di diventare Taricone, poi dopo l'Epifania è diventata una nuova norma, infatti come ci dicevano gli autori dei reality, ci sono tanti che si presentano come Taricone II, Taricone III. Infatti fu sdoganato da Umberto Eco, che ne fece una famosa lettura, come a suo tempo sdoganò Mike Buongiorno, sdoganò questo nuovo parto difforme della televisione. Grazie a Alessandro Chiappini, grazie a Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0